Voi a te se messo in testa, ma che vuoi? Voi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa! ...17:31 con stranissima puntualità inizia la puntata odierna di Impatto, la trasmissione che dà notizia dei movimenti contro nocività ambientali e disastri vari. Oggi abbiamo in scaletta fondamentalmente due temi importanti, che sono l'ILVA e i rifiuti. Quindi andremo a parlare di alcuni aggiornamenti sulla situazione dell'ILVA di Taranto e ad avremo anche una corrispondenza con un compagno. Poi rapidamente daremo una notizia sull'inquinamento dell'acqua, una notizia recente di oggi, e infine chiuderemo con una panoramica della situazione rifiuti, una valutazione della giornata di sabato 6 a Malagrotta ed Albano, e chiuderemo con una corrispondenza da Col Felice. Andiamo quindi ad iniziare questa puntata dando qualche aggiornamento sulla situazione dell'Ilva di Taranto e una simpatica notizia simpatica per noi che non abitiamo là, sull'impossibilità addirittura di seppellire i morti a Taranto. Sì, infatti, allora diciamo innanzitutto che a Taranto questa è una giornata importante, lo sarà ancora di più domani, dal momento che domani comunque la Corte Costituzionale si esprimerà finalmente sui ricorsi presentati dal GIP Todisco e dal Tribunale dell'Appello contro quello che era il decreto di Clini, che poi è diventato legge 231, ossia la famosa legge Salva Ilva, che in qualche modo ha legittimato la produzione invece resa illegale da tutte le vicende giudiziarie che l'azienda ha dovuto affrontare nell'anno precedente. E dal momento che questa legge di Clini, su questa legge c'è un dubbio di legittimità costituzionale, visto che potrebbe addirittura andare contro ben 17 articoli della Costituzione, il GIP Todisco ha fatto questo ricorso e finalmente domani sapremo come andrà a finire. Quindi se quest'AIA si applicherà, se l'azienda potrà rimanere aperta e in vista di questa data importante, tra l'altro la città di Taranto ha fatto una manifestazione a sostegno della magistratura, l'ennesima manifestazione, giusto il 7 scorso, quindi domenica, ieri. E adesso insomma entriamo in collegamento con un compagno di Taranto che magari ci darà una visione anche un po' più ampia della questione. Detto ciò, la notizia di cui parlava poco fa Niccolò è un'altra notizia insomma che ci dà una misura della tragicità della situazione di Taranto dal punto di vista dell'inquinamento, dal momento che Sì, infatti questa cosa riguarda più che altro il terreno della zona circostante l'Ilva, ovvero Taranto, in particolare il quartiere di Tamburi, dove risiede questo cimitero che a quanto pare da ieri non sotterra più i propri morti. Infatti i lavoratori del cimitero dovrebbero indossare delle mascherine per lavorare il terreno che è altamente contaminato, e a questo tra l'altro si collega un'ordinanza, credo un'ordinanza appunto della città, che vieta ai bambini di giocare su terreni che non sono mattonati. Quindi insomma questo ci fa capire che tipo di qualità del non solo dell'aria ma anche appunto del terreno e della terra che circonda la zona. Va bene, quindi passiamo rapidamente un pezzo ed andiamo a collegarci con il primo compagno che ci darà un attimo il punto della situazione a Taranto. Ciao Gianmario, ci senti? Sì. Ciao, benvenuto ad Impatto. Senti, ciao. Noi abbiamo già dato un po' un'introduzione su insomma quelle che sono le date prossime, insomma gli avvenimenti che stanno arrivando, e tra l'altro è un tema che abbiamo affrontato spesso qui alla radio, però insomma volevamo un po' un commento da parte tua, non so, anche un pronostico su quello che potrebbe succedere domani da parte della Corte Costituzionale. Sì, no, innanzitutto buonasera a tutti. Fare un pronostico su quello che deciderà domani la Corte Costituzionale, diciamo, non è semplice, in quanto fondamentalmente le strade possibili sono tre. La prima, che è ovviamente quella più temuta da parte dei cittadini di Taranto, è che la Corte Costituzionale giudichi non positivamente i ricorsi presentati dal CIP Todisco e dal Tribunale d'Appello di Taranto e quindi li rigetti, giudicando costituzionale la legge Salva Ilva e quindi lasciando le cose così come stanno. La seconda possibilità, che è altrettanto negativa, sarebbe quella di vedere una Corte Costituzionale che decide di non entrare nel merito della vicenda. Ed è una cosa molto probabile, perché proprio la settimana scorsa si è svolto tanto un convegno proprio su questo argomento e si è scoperto che nel 70% dei casi la Corte Costituzionale non entra nel merito di determinate vicende. E la terza strada ovviamente vedrebbe invece accogliere i ricorsi presentati dal CIP e dal Tribunale dell'Appello di Taranto, il che però ovviamente scatenerebbe effetto domino, varie conseguenze, soprattutto sul piano sociale, perché dare ragione ai ricorsi e quindi giudicare la legge Salva Ilva anticostituzionale vorrebbe dire che l'aria a caldo dell'Ilva tornerebbe di nuovo nelle mani della procura e quindi dei custodi giudiziari e non più dell'Ilva come adesso. Vorrebbe dire che l'Ilva non potrebbe più produrre, ma dovrebbe di nuovo seguire i dettami del CIP, che sono quelli di fermare gli impianti, risanare e poi farli ripartire, e quindi vorrebbe dire l'ennesima reazione tra virgolette scomposta dell'Ilva, che potrebbe nuovamente minacciare la chiusura immediata di Taranto e di tutti gli impianti collegati alla produzione del siderurgico tarantino, quindi l'immediata mobilità per migliaia e migliaia di lavoratori, quindi far scoppiare nuovamente ciò che è accaduto già ad agosto e a novembre-dicembre. E quindi generare, diciamo, il panico generale tra sindacati e varie istituzioni. Sì, il discorso è politico, spesso la Corte Costituzionale dà sentenze politiche, siccome in questo momento non c'è un governo in grado di poter gestire una situazione del genere, non è da escludere che la Corte sia influenzata anche dalla situazione politica attuale italiana. E quindi in qualche modo, cioè, cosa intendi? Essere meno influenzata dalle posizioni di chi sta al governo o esserlo anche di più? No, esserlo di più, cioè in questo momento un giudice della Corte Costituzionale può anche dire sì, a Taranto hanno ragione, però far scoppiare di nuovo la crisi Ilva in questo momento sarebbe deleterio, perché non c'è nessuno in grado di gestirla, perché non c'è un governo in questo momento solido. Quindi loro in questo senso potrebbero essere influenzati e quindi tentare una via di mezzo che salvi la produzione dell'Ilva e nello stesso tempo magari chieda al governo futuro di garantire che l'Ilva faccia tutti i lavori che deve fare e che si migliori la situazione sanitaria e ambientale di Taranto in questo senso. Mm-mm. Senti, ma a tal proposito, come stanno andando avanti effettivamente? Come la realizzazione dell'AIA sta procedendo oppure c'è del fumo negli occhi di tutti e basta? Ma il discorso è questo, che l'AIA, così come è stata scritta, prevede che ogni 3 mesi gli esperti dell'ISPRA vengano a Taranto per fare 1 o 3 giorni di controlli sull'effettivo stato dei lavori. Il discorso è questo, ricordiamoci innanzitutto che l'AIA che è stata rilasciata il 26 ottobre dell'anno scorso dal Ministero dell'Ambiente e Clini all'Ilva riguarda solamente le emissioni nell'aria, perché la parte relativa ai rifiuti e alla gestione delle acque e dei reflui è ancora al vaglio della commissione IPPC, quindi stiamo parlando già di un'AIA tra virgolette a metà. Ora, l'AIA concessa a ottobre ha 95 prescrizioni. Ovviamente, attualmente l'Ilva sta procedendo con la realizzazione di quelle più semplici, diciamo, ha risposto con una relazione dove dice che molte attività sono in corso, che per ottemperare alcune prescrizioni ha già ordinato il materiale, però per esempio c'era una prescrizione che diceva che entro la fine di gennaio di quest'anno l'Ilva avrebbe dovuto coprire i 90 km dei nastri trasportatori da tutti e 4 i lati, i nastri trasportatori che sono quelli che portano il minerale dalle navi sin dentro i parchi minerali, poi dal parco minerali negli impianti dove vengono lavorati. L'Ilva ha chiesto una proroga fino all'ottobre del 2015 per ottemperare una prescrizione che avrebbe dovuto realizzare a gennaio, e questo gli è stato concesso dal Ministero dell'Ambiente, perché Clini ha svelato che a lui non importa se l'Ilva non rispetta una prescrizione, perché lui ha detto l'importante è che lo faccia entro il 31 dicembre 2015, cioè se l'Ilva dice io questi nastri non li riesco a coprire in questo tempo che tu mi hai chiesto per un problema tecnico, ti chiedo una proroga, e il Ministero dell'Ambiente l'ha concesso. Quindi ci ha detto ben 95 proroghe addirittura? No, sono 95 le prescrizioni. Ha chiesto una serie di proroghe, ovviamente, sulle prescrizioni più dure da realizzare, perché l'Ilva ha dei problemi strutturali, come per esempio la copertura dei nastri trasportatori, che era prevista già nei primi atti d'intesa del 2003. Questo per dire come tanti lavori potevano essere fatti prima e quindi tutto quello che è accaduto poteva quantomeno avere effetti meno disastrosi. Però la situazione è questa: l'ISPRA ha certificato che alcune cose sono state fatte, molte altre non sono state fatte, ha messo nero su bianco sul sito dell'ISPRA, c'è un'area dedicata all'AIA, all'Ilva, al garante, ai controlli, dove c'è una relazione dell'ISPRA dove dice che ci sono molte problematiche non risolte, come quelle delle cokerie, dei nastri trasportatori non ancora coperti. C'è una relazione dell'ARPA che è stata presentata anche dalla Procura di Taranto, dove l'ARPA dice che al di là del miglioramento delle rilevazioni di PM10 dovute all'abbassamento dei cumuli pollute dei costi giudiziari, l'area dei tamburi è migliorata, la relazione dell'ARPA dice che l'impatto ambientale dell'Ilva non è diminuito sulla città di Taranto. Scusami, quindi una domanda un po' forse ingenua. Sì. Tu hai detto che c'è un'AIA a metà, che riguarda solo le missioni nell'aria. È prevista, dovrebbero avviare, insomma, dovrebbero fare un'AIA per le altre missioni, per tutti gli altri tipi di problematiche, oppure non è previsto niente di tutto questo? Sì, no, in realtà devono completarla, cioè nel senso che l'autorizzazione integrata ambientale è una, al cui interno ci sono le prescrizioni riguardanti le emissioni in aria, quelle nell'acqua e la gestione dei rifiuti. Diciamo che hanno completato solo una metà. Per esempio quella sui rifiuti doveva essere completata entro gennaio, ma la stessa commissione IPPC ha chiesto un'ulteriore proroga, quindi se ne discuterà a maggio. Però è sempre un'unica autorizzazione all'interno della quale ci sono le prescrizioni nei vari campi. Quindi sicuramente si dovrà completare quest'AIA. Per ora è un'AIA a metà, perché sono riusciti in pochi mesi, ovviamente. Sì, serviva in quel momento presentare questa cosa per insomma tentare di tamponare un po' l'azione della magistratura. Sì, diciamo così. Senti, ma invece com'è il clima nella città in questi giorni in vista di domani? Ma Taranto continua, diciamo, ad essere una città profondamente spaccata, perché ovviamente purtroppo non si è capito che il destino di questa città non è più nelle mani del gruppo Riva, che ha già, diciamo, mosso le sue pedine con grande anticipo e sta già facendo di tutto per lavarsene completamente le mani, e quindi ovviamente qui, come al solito, si fa una guerra tra virgolette tra poveri, perché gli operai sono tesi innanzitutto per la situazione interna alla fabbrica, perché da gennaio ad oggi sono già avvenuti 7 incidenti sul lavoro, di cui uno mortale, e gli operai è da tempo che denunciano come il sistema di sicurezza interno all'Ilva sia del tutto saltato, il che è l'ennesima testimonianza di un lento ma inesorabile disimpegno dei Riva della gestione dell'azienda. Dall'altro lato ovviamente ci sono i cittadini che giustamente pongono le loro istanze a tutela della salute e dell'ambiente, dove c'è una carneficina di persone, di ammalati e di morti, che oramai è un dato acclarato. La città ieri è scesa in piazza ancora una volta, ma c'erano 5.000 persone, ovviamente paragonate alle 15.000 di dicembre sono decisamente meno, questo si spiega con le tante divisioni interne ai vari movimenti cittadini, si spiega probabilmente anche con il timore di quello che può succedere di qui ai prossimi giorni, per una sentenza che tutti aspettano, ma che io credo al gruppo Riva interessi molto poco, sinceramente. Immagino anche che la situazione post-elezioni abbia influenzi non solo la magistratura, ma anche i movimenti e le associazioni che si muovono sul territorio. Sì, infatti ieri c'era una parte di corteo dove ovviamente c'erano i movimenti, diciamo, antagonisti, che oltre hanno fatto una manifestazione nella manifestazione, perché mentre il troncone iniziale della manifestazione chiedeva aria pulita, dava il sostegno alla magistratura, il troncone di dietro invece chiedeva, oltre all'aria pulita, chiedeva alla politica di investire su questo territorio, il lavoro, in cultura, in turismo. Sono state richieste interventi e presentate istanze sul lavoro precario, perché Taranto, al di là di tutto, avrà anche il più grande siderurgico d'Europa, ma è una città col 40% del tasso di disoccupazione. C'è una fuga di giovani inesorabile che dura da decenni, quindi Taranto è una delle tante città italiane che ha problemi strutturali, e credo sia stato importante da parte di questi ragazzi protestare non solo per un'area più pulita, ma soprattutto per una città diversa, perché se non si investe su altro e sulle alternative che questa città può offrire, che l'Ilva chiudi o meno, non credo che si salverà comunque. Senti, ma invece rispetto all'iniziativa del Comitato Taranto Futura di promuovere questo referendum cittadino, non so, a tuo avviso sarà effettivamente strumentale, funzionale, insomma, l'azione della magistratura, oppure, non so, è uno strumento un po' fine a se stesso alla fine? Ma già il fatto stesso che un referendum consultivo, che quindi per legge altro non è che una mera espressione del pensiero della cittadinanza è ovviamente uno strumento relativo. Il discorso di questo referendum è che sicuramente capita in un momento del tutto inopportuno, questo non certo per colpa del Comitato Taranto Futura, che iniziò la sua battaglia nel 2007, ottenne le oltre 3.000 firme che servono per presentare un referendum cittadino nel 2010, all'epoca i quesiti erano 5, i saggi del comune ne accettarono solamente 3, solamente che poi partirono i ricorsi al TAR di Lecce di Confindustria, Ilva, CGL e CISL, che si dichiararono contro questo referendum. Il TAR di Lecce dette ragione ai ricorrenti, il Taranto Futura ricorse al Consiglio di Stato, nell'ottobre del 2011 il Consiglio di Stato dette ragione al Taranto Futura, quindi ripartì tutto l'iter burocratico comunale, ma il sindaco è stato molto abile nel ritardare il più possibile lo svolgimento di questa consultazione referendaria. C'è un'intercettazione che è presente nei verbali dell'inchiesta Ambiente Svenduto del luglio 2010, dove il sindaco di Taranto, l'attuale sindaco Stefano, già nel 2010 diceva a Gitano Marchina, l'ex PR dell'Ilva: non ti preoccupare, farò di tutto per rinviare il più possibile nel tempo la consultazione referendaria. Taranto Futura, tra l'altro, è stata un comitato che è stato abbandonato da tutti, anche dagli ambientalisti, che appoggiano il referendum oggi, cioè l'hanno appoggiato forse negli ultimi 20 giorni unicamente perché gli serviva l'appoggio alla manifestazione di ieri, perché gli ambientalisti per anni hanno detto non lo facciamo questo referendum perché secondo noi il quorum non si raggiunge, ma anche qualora si dovesse raggiungere rischiamo che i cittadini votano no alla chiusura dell'Ilva e quindi per noi è un boomerang. Quindi diciamo questo referendum ha vissuto una vita assolutamente contorta e oggi si presenta con due quesiti solamente, perché il terzo, che riguardava la bonifica, la richiesta di bonifica per il comune, non è stato più valido dopo l'intervento del governo nell'agosto scorso, e quindi oggi si ritrova a dover votare per due quesiti praticamente antitetici, perché uno chiede se si è d'accordo o meno con la chiusura dell'area a caldo dell'Ilva e l'altro chiede se si è d'accordo o meno con la chiusura totale dell'Ilva. Ma tutti sanno che anche se solo chiudesse l'area a caldo dell'Ilva, che è il cuore della stessa azienda, praticamente l'Ilva chiude lo stesso, perché ovviamente non potendo più produrre l'acciaio non avrebbe nemmeno di che far lavorare l'area a freddo e quindi chiuderebbe comunque. Sì, sì, esatto. Quindi io resto dell'idea che è giusto farlo, perché è giusto dare la possibilità ai tarantini di esprimere il loro pensiero, ma assolutamente andava fatto molti anni prima. Questo assolutamente. Va bene Gianmario, ti ringraziamo e allora staremo a vedere quello che succede domani e magari ci risentiamo nelle prossime settimane. Grazie per la partecipazione allora. Buon lavoro. Anche a te. Ciao. On a getting soon. Soon they hope we will. millions of dumbfounded dipshits, and some say the end is near. Some say we'll see Armageddon soon. Certainly hope we will. I shook a news of vacation from this stupid shit. Stupid shit. Stupid shit. One great big festering neon distraction. I've a suggestion to keep you all occupied. Then you swim. Fix it all soon. Mom's coming round to put it back the way it ought to be. Torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Impatto, la trasmissione che si occupa di dar voce alle lotte territoriali che si battono contro le nocività ambientali. Abbiamo da poco finito di parlare dell'Ilva e ora passiamo, insomma, a una breve notizia riguardante l'acqua. E, come al solito, quando si parla di acqua, insomma, non ci sono mai buone notizie, dall'arsenico presente nelle acque dei castelli ai depuratori che non funzionano. In questo caso invece parliamo di un rapporto dell'ISPRA, ovvero l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, riguardo la contaminazione delle acque da parte dei pesticidi. Infatti, secondo uno studio fatto nel 2010, risultato che più della metà delle acque superficiali e circa il 30% di quelle sotterranee risultano contaminate da pesticidi per un totale di 166 tipologie di pesticidi, a fronte dei 118 del biennio 2007-2008. Questa situazione è dovuta in gran parte a residui di prodotti fitosanitari usati in agricoltura e inoltre è stato rilevato, confrontando appunto questi risultati con i limiti affinché appunto le acque siano potabili, è risultato che il 34%, quindi, delle acque superficiali e il 12% di quelle sotterranee risultano appunto acque non potabili. Tra l'altro risulta sempre in questa analisi dell'ISPRA che questi rilevamenti sono presenti dei miscugli di sostanze, quindi delle combinazioni di miscele, e che appunto queste combinazioni di miscele non sono state ancora verificate sperimentalmente i danni che possono recare alle persone, e quindi sostanzialmente si crede che i livelli di contaminazione e i rischi, insomma, derivanti dall'esposizione rispetto a questi pesticidi siano addirittura sottovalutati. E in conclusione, tra l'altro, affermano inoltre che questa fase è ancora una fase transitoria in cui chiaramente la diffusione dei pesticidi è in costante evoluzione e in costante aumento, e quindi, insomma, è un fenomeno da tenere ben presente, insomma. Beh sì, poi soprattutto con questa campagna per aprire impianti a biogas sappiamo bene che il risultato della digestione anaerobica degli impianti a biogas viene spacciato per compost o fertilizzante, e che, insomma, può notevolmente contribuire invece alla contaminazione delle acque, spacciando, insomma, come fertilizzante o compost o tutt'altro, e quindi, insomma, l'allarme forse è anche ancora più maggiore. Sì, senz'altro. Vabbè, quindi per quel che riguarda questo argomento possiamo anche chiudere qui. Passiamo al prossimo argomento, che naturalmente, come che non ci facciamo mai mancare da questi microfoni, che sono i rifiuti. E abbiamo un po' di considerazioni da fare, ad esempio sulla giornata del 6 sabato scorso ci sono stati tre cortei, è stata caratterizzata da tre cortei in altrettanti siti di Lazio e Campania interessati da progetti di devastazione ambientale. Quindi a Capua c'è stato un corteo contro il gasificatore di Capua, abbiamo avuto anche una corrispondenza venerdì mattina con un compagno di Capua, e invece qui nel Lazio ci sono stati in contemporanea due cortei, uno a Malagrotta, quindi per contestare l'ampliamento di Malagrotta, il raddoppio di Malagrotta con il sito di Monti dell'Ortaccio, ed un altro ad Albano per contrastare il progetto di apertura del cantiere dell'inceneritore. E cosa possiamo dire? È stata una giornata abbastanza produttiva, il bilancio è piuttosto positivo. A Capua c'è stato un corteo che ha sfilato per le vie cittadine la mattina, mentre a Malagrotta ed Albano i cortei sono stati quasi contemporanei. A Malagrotta non era scontato portare centinaia di persone in piazza, la cosa è riuscita molto bene. A parte un piccolo dettaglio antipatico che c'è stato in chiusura corteo, è stato comunque un successo, e adesso si deve pensare come replicare. A Castelli Romani invece, come per l'undicesima volta, si è riuscito a portare in piazza migliaia di persone, stimiamo circa 2000 persone ci fossero sabato scorso, che hanno sfilato da Albano e da Riccia, e quindi diciamo un ottimo bilancio per questa prima giornata di mobilitazione diffusa. Beh sì, sicuramente, insomma, le iniziative non erano scontate che riuscissero, e soprattutto, insomma, gli effetti che potranno produrre nelle prossime settimane. Sulla vicenda di Malagrotta si intreccia pesantemente a tutto quello che sta succedendo con la concomitanza della campagna elettorale. Insomma, poi tra gli aggiornamenti ne parleremo un po' meglio. E quindi, insomma, l'iniziativa era stata osteggiata nelle settimane passate da partiti e partitini, perché insomma era forse una delle prime iniziative che cercava di svincolarsi da un'impostazione che ricalcava un modello che insomma invece è quello che ha prodotto la tragedia di più di 30 anni di discarica più grande d'Europa nel territorio di Malagrotta. E insomma, da qui ai prossimi mesi c'è sicuramente ancora molto da lavorare, perché i progetti di devastazione e saccheggio non sono assolutamente fermi, anzi stanno combinando un vero casino, un vero c'è una confusione sull'argomento veramente notevole, e insomma cercheremo di spiegare perché. E quindi c'è sicuramente la necessità di dare una risposta almeno regionale a tutte le varie iniziative che sull'argomento si stanno muovendo: discariche, inceneritori e impianti a biomassa. Per quanto, insomma, come è stato detto anche dai microfoni alla manifestazione ad Albano, i comitati ad Albano, ormai questa è la terza giunta regionale con cui si confrontano, e insomma tra qui ai prossimi mesi, addirittura settimane, Zingaretti sarà costretto a intraprendere qualche iniziativa su questo argomento, perché i tempi veramente stringono, soprattutto su Roma, e quindi c'è sicuramente la necessità di farsi sentire al più presto e imporre un nuovo modello di smaltimento dei rifiuti, ma anche di produzione degli stessi. Insomma, non ci prendiamo in giro, alla base della quantità di rifiuti che produciamo c'è il modello di produzione che ci è imposto. E quindi insomma una sfida molto lunga e di ampio respiro, che però insomma nei prossimi mesi deve sicuramente replicare, scendere in piazza per far sentire quali sono le ragioni delle popolazioni e i drammi che già insomma si vivono abbastanza pesantemente. Quindi adesso mettiamo un attimo uno stacco musicale per staccare troppa mondezza, sappiamo fa male, quindi diamo un attimo uno stacco e torniamo con gli aggiornamenti ed un collegamento con un compagno di Col Felice. E torniamo ad impatto e volevo insomma fare un appunto su per quanto riguarda la manifestazione che c'è stata a Malagrotta sabato scorso, per cui insomma si è fatto un corteo molto lungo che è partito da Malagrotta, è arrivato fino a Monti dell'Ortaccio, quindi ha permesso anche magari a chi non era della zona di vedere un po' effettivamente la devastazione che c'è in quel territorio, e si è arrivati fino a Monti dell'Ortaccio dopo circa 10 chilometri insomma di corteo a valicare quel limite per ora simbolico del cantiere di Monti dell'Ortaccio, quindi insomma il comitato organizzatore è molto soddisfatto. E quindi andiamo avanti con gli aggiornamenti e, insomma sappiamo che ultimamente le cose si stanno muovendo abbastanza, abbiamo Cerroni che ha scritto a Zingaretti dicendo a che Clini, ha già, a Sottile a Zingaretti, ma Zingaretti dicendo che ha già fatto gli accordi in un incontro paraistituzionale con Clini e Sottile, quindi lui già si è messo d'accordo, già sa che gli arriveranno tutti i soldi per l'inceneritore d'Albano per chiudere il ciclo dei rifiuti, perché il ciclo dei rifiuti qui nel Lazio si chiude, insomma si tratta tutto, si tratta nei rifiuti, si evita la multa dell'Unione Europea, poi si brucia tutto quello che avanza ed abbiamo tanta energia per far funzionare le nostre fabbriche e andare avanti la nostra produzione. E questo è lo spot della, insomma sicuramente lo spot di Maglio Cerroni, che farebbe molto con soddisfazione se tutto ciò fosse vero, però in realtà i problemi sono parecchi e già su un po' tutti i giornali sta affiorando il fatto che questa grandissima farsa del trattamento dei rifiuti e dei rifiuti che vanno verso le altre province ha preso una piega che è veramente poco credibile, con delle forzature anche abbastanza brutte, perché insomma a Colfelice sono ormai 3-4 giorni che va avanti un presidio proprio per protestare contro questa iniziativa, perché insomma gran parte delle tonnellate che da Roma vanno in provincia vanno nel sito della provincia di Frosinone. Fortunatamente siamo riusciti a reperire il numero di qualcuno che si trova lì al presidio e cercheremo di chiamarlo per farci raccontare quello che è successo, insomma le prospettive che ci sono lì, ed è sempre più evidente come quello che si muove nella città di Roma influenza anche insomma influenza e ha conseguenze molto pesanti su tutta la provincia. In particolare un po' su tutti i giornali, facendosi due conti, quelli che noi abbiamo fatto mesi fa, la città di Roma producendo 4.000 tonnellate di rifiuti al giorno riesce a trattarne a malapena 2.500, ne porta 700 in provincia, ha circa 800 tonnellate vaganti, 800 tonnellate di rifiuti non trattati vaganti che giovedì 11 aprile ufficialmente a quanto pare non possono più entrare dentro la discarica di Malagrotta, quindi ufficialmente svaniranno nel nulla. E pensiamo proprio di no, perché insomma quegli 800 tonnellate un po' di soldini valgono e quindi insomma qualche profitto toccherà tirarcelo fuori, e però purtroppo non si capisce che tipo di iniziativa si vuole cercare di portare a termine. Pare che si stiano cercando di prendere accordi con la 2A e in particolare con l'impianto che si trova nella provincia di Padova a San Lazzaro, per conferire temporaneamente circa un migliaio di tonnellate all'inceneritore della ditta A2A a San Lazzaro. Però E parliamo di un migliaio di tonnellate di tal quale. Esattamente, e proprio su questo la ditta ha risposto dicendo che insomma loro dentro l'inceneritore il tal quale non ce lo potrebbero bruciare, e il tal quale da una regione all'altra non può girare se non c'è un accordo interregionale, se invece gli portassero dei rifiuti trattati non ci sarebbe nessun problema perché possono viaggiare liberamente, e questo ci viene da sorridere, non capiamo perché poi una volta che li hanno trattati li devono portare lì a bruciare, quando invece è punto li possono tranquillamente sotterrare a Malagrotta fino a giugno, perché la scadenza dei rifiuti trattati è a giugno, quindi insomma secondo noi c'è il serio rischio che le 800 tonnellate rimanenti verranno ulteriormente spammate in maniera truffaldina sugli altri siti della regione. Sì, sembra un po' che questa notizia dei rifiuti portati al di fuori della regione Lazio sia un modo per colmare un vuoto di iniziativa politica e quindi in attesa di effettivamente di un'azione effettiva per quanto riguarda la questione dei rifiuti. E in realtà, seppur la notizia si trova su tutti i giornali, non è effettivamente non c'è nulla nessun accordo preso. Per esempio la regione Veneto si rifiuta di prendere i rifiuti laziali. Sì, l'assessore leghista ha già insomma espresso dichiarazioni contrarie a questa ipotesi. Sì, quindi insomma pensiamo che è una notizia che svanirà a breve, a meno che non ci siano accordi successivi effettivi, ma a quanto abbiamo capito Lazio, Roma in particolare, deve smaltire il tal quale. Le altre regioni non vogliono smaltire il tal quale, quindi insomma è un po' difficile che si troverà un accordo da questo punto di vista. E poi da qui a giovedì 11 aprile, data in cui la discarica di Malagrotta non accetterà più rifiuti non trattati, c'è da inserire un altro insomma episodio abbastanza significativo, di cui però non comprendiamo bene l'entità, perché proprio nei giorni passati c'è stato un incidente dentro l'impianto di tritovagliatura, come lo chiamano tutti i giornali, l'impianto di Rocca Cencia. Quindi insomma tritovagliatura e TMB sono due cose un po' diverse, ancora non si è capito di che tipo di trattamento fanno a Rocca Cencia. O ci prendono per il culo o ci prendono per il culo. Sì, teoricamente la tritovagliatura è il primo elemento del trattamento, dell'intero trattamento di TMB, che fondamentalmente trita il rifiuto, che poi dovrà finire in un impianto a biogas, bollire là per un po', per circa 60 giorni, per poi essere buttato in discarica. Non è che stiamo parlando di niente di trascendentale. Sì, poi l'incidente di cui parlavamo a Rocca Cencia, a quanto riportano alcuni quotidiani, si tratta di un incidente praticamente automobilistico, ovvero il camion che trasportava il motore dalla Germania e ha fatto il botto. Quindi per ora il tritovagliatore di Rocca Cencia si trova senza motore. Dovremo aspettare il 20 aprile per vedere se riusciranno a trovarne un altro o aggiustare quello che hanno già. E quindi anche questa data è abbastanza importante, perché tra giovedì 11 aprile e il 20 aprile prossimo la città di Roma probabilmente è scoperta da parecchie, almeno più di 1000 tonnellate di rifiuti, non sarà possibile trattarli, e insomma vogliamo proprio vedere cosa succede. E le ipotesi insomma l'abbiamo già dette quali possono essere. Certo che i giornali già si spendono in allarmistici emergenze con rifiuti per strada, e questo ci fa un po' sorridere. Insomma, mancano ancora parecchi giorni e siamo nel pieno della campagna elettorale della città di Roma, ci starebbe veramente veramente bene che si aprisse insomma la campagna elettorale con i rifiuti per strada. Sarebbe una super perla che insomma la città di Roma potrebbe anche evitare di far accadere, insomma. Vabbè, ma tanto la monnezza la mandiamo ad Albano e Colfelice, insomma se non si incavolano là magari sentiamolo qualcuno, se si è incavolato qualcuno. Ma adesso vediamo di metterci in contatto con Colfelice e vediamo un attimo che cosa ci raccontano. sempre in onda dai microfoni di Radio Onda Rossa. Come avevamo promesso ai nostri ascoltatori, siamo riusciti a metterci in contatto con la località di Col Felice e abbiamo in contatto Fabrizio, che fa parte del comitato contrasto dei Rocca Secca, e insomma chiediamo, insomma lo ringraziamo per essere qua in diretta e gli chiediamo subito, insomma, di raccontarci cosa è successo questa mattina in particolare e nei giorni passati, e che tipo, insomma, di situazione si sta vivendo in quel territorio. Ciao Fabrizio. Ciao, grazie a voi tutti, buonasera. Sì, dunque, i motivi e le ragioni della protesta sono ormai noti. Ci stiamo opponendo con determinazione all'attuazione del decreto Clini, che con arroganza, con protervia, con violenza ha emanato questo decreto per trasferire i rifiuti di Roma, Ciampino, Fiumicino e Città del Vaticano nell'impianto di Col Felice, per un totale di 420 tonnellate al giorno. Il ministro Clini e il suo sottoposto Sottile, che sarebbe il commissario straordinario che sta gestendo l'emergenza dei rifiuti a Roma, impongono questo decreto, questo trasferimento dei rifiuti, che noi riteniamo che sia deleterio per il nostro territorio, che già ha pagato e sta pagando abbondantemente il proprio prezzo allo smaltimento dei rifiuti, alla civiltà e al progresso. I motivi della protesta sono questi. Per quanto riguarda l'altra domanda, che volevate sapere in particolare che cosa è accaduto questa mattina, è accaduto questo: che insieme ai sindaci del comprensorio, i 90 hanno... sindaci. Come? Insomma, dalla stampa apprendiamo che ci sono 90 sindaci. Il comprensorio. Sì, i 90 sindaci della provincia di Frosinone. Il coordinamento però è formato da 7 sindaci, sono quei sindaci dei comuni limitrofi agli impianti di smaltimento. Abbiamo indetto questa manifestazione per richiamare l'opinione pubblica, l'attenzione dell'opinione pubblica su questo problema. Ci sono stati degli interventi, abbiamo bloccato un camion proveniente da Roma questa mattina intorno alle ore 5:30. Poi si è tenuto all'interno dell'impianto della SAF una riunione tra la dirigenza della SAF, la società Ambiente Frosinone che gestisce l'impianto stesso, i sindaci che erano presenti, erano 12, e in più siamo stati ammessi anche noi dei comitati. E poi è accaduto questo, che durante una nervosa trattativa con le forze dell'ordine siamo riusciti a rispedire a Roma il camion che avevamo bloccato all'ingresso dell'impianto. Oh, ok, quindi insomma un po' di tensione di fronte ai cancelli, però insomma serve anche per dare il segno della determinazione della popolazione contro questo tipo di iniziativa, che insomma ci pare più che legittima. Sì, i presidi continueranno anche domani, però non esclusa la presenza con altri contingenti della polizia. E ci hanno praticamente minacciato che se interromperemo il flusso dei camion presso l'impianto, insomma, saremo caricati. Quindi insomma, quando la situazione diventa ingestibile, le risposte istituzionali insomma si fanno più dure. Noi confidiamo che se nei prossimi giorni o domani dovesse succedere qualcosa di insomma un po' più grave, i microfoni qua di questa radio sono aperti a interventi e denunce di ogni tipo, e quindi non fatevi scrupolo per comunicare quanto avviene. E io insomma, noi prima parlavamo un po' di quello che sta accadendo qua a Roma e delle conseguenze conseguenze che purtroppo sta avendo sul vostro territorio, perché insomma un po' le testate giornalistiche, un po' il clima elettorale qui per le comunali della città di Roma, facendosi due calcoli si è capito che 800 tonnellate di rifiuti giovedì 11 aprile non avranno una destinazione chiara. E in più l'impianto di Rocca Cencia è fermo a causa di un incidente, quindi insomma la quantità di rifiuti non trattati che Malagrotta non può più accogliere aumenta, e insomma le preoccupazioni da Colfelice ad Albano a Viterbo aumentano, perché insomma c'è il rischio anche che il carico che le province, il resto delle province del Lazio si devono sorbarcare rischia insomma di aumentare notevolmente, a meno che insomma non si trovi un'altra soluzione compatibile che non, insomma, che non sia l'apertura dei Monti dell'Ortaccio. Quindi insomma parecchio la situazione si sta ingarbugliando parecchio, e sicuramente la campagna elettorale non favorisce un dibattito schizofrenico Serino. Come quello che c'è a Roma. Sì, ma poi a questo problema, a questa vicenda del trasferimento dei rifiuti di Roma qui in provincia di Frosinone si aggiunge un altro elemento di preoccupazione, perché a partire dal giorno 11 aprile Malagrotta non potrà più ricevere i rifiuti indifferenziati, e a partire dal 30 giù, dal 1 luglio, non potrà ricevere più i rifiuti trattati. Quindi ci si avvierà alla chiusura definitiva di Malagrotta, dove già pronto un progetto di camping, di capping, di ricopertura della discarica, praticamente chiuderà la coltivazione dell'invaso. E per noi è una preoccupazione, perché Roma sarà costretta a spalmare sugli impianti di discarica presenti nelle altre province i propri rifiuti, e questo per noi è preoccupante e inaccettabile. Senti, qui insomma quindi per le iniziative future che avete in mente di mettere in campo, sia probabilmente lì davanti ai cancelli degli impianti di MB, oppure anche convegni, assemblee, avete già in mente qualcosa? Sì, no, veramente adesso noi siamo in attesa di un tavolo tecnico che sarà predisposto dalla Regione Lazio, dove parteciperanno i sindaci del comprensorio e i comitati. È quello che ha riferito, che ha proposto stamane durante l'incontro negli uffici della SAF l'onorevole consigliera regionale Daniela Bianchi della lista del listino di Zingaretti. Noi parteciperemo come comitati e faremo le nostre proposte, che saranno queste: la suddivisione di la provincia di Frosinone in quattro macro aree, dove realizzare degli impianti più piccoli di trattamento meccanico biologico dei rifiuti, la chiusura della discarica di Rocca Secca e l'avvio su tutto il territorio provinciale della raccolta differenziata. In più rivedere un po' la governance dell'impianto di Colfelice, di sostituire praticamente tutto l'esecutivo che da 20 anni a questa parte sta avvelenando questo comprensorio. In più chiederemo che sia rivista tutta la politica dello smaltimento dei rifiuti nella nostra provincia. Ci terrei a dire questo, che noi non siamo affetti da sindrome NIMBY. Noi vogliamo che lo smaltimento avvenga nel modo razionale, corretto, civile, secondo quanto prevedono le norme, secondo quanto prevedono le direttive della Comunità Europea. Insomma, vogliamo che gli impianti siano inseriti in un contesto europeo. Senti, una domanda sull'impianto di MB. Noi qui insomma seguiamo abbastanza da vicino le vicende di Malagrotta e di Albano Laziale, e sappiamo insomma come questi impianti e come anche molto spesso poi i giornali, tradendosi, chiamano, insomma, definiscono tritovagliatori, e noi sappiamo bene che la tritovagliatura, insomma, non è assolutamente un tipo di trattamento che riduce i danni comunque prodotti dai rifiuti, ma è soltanto un espediente per recuperare volumetrie dentro la discarica. Da questo punto di vista, lì per l'impianto di Col Felice, come, che si sa, come lavora questo impianto? Attualmente vengono conferiti nell'impianto di Col Felice oltre 400 tonnellate al giorno prodotte dai comuni della provincia di Frosinone. Allora, il rifiuto conferito, una parte dell'umido viene diessiccato e diventa CDR, combustibile derivato dai rifiuti, che viene poi trasferito, conferito nell'inceneritore di San Vittore del Lazio. Un'altra parte invece è compost, un ammendante, un fertilizzante da utilizzare in agricoltura. Ma sia il CDR che il compost sono di pessima qualità, tant'è vero che il compost non trova mercato nelle industrie florovivaistiche e nelle aziende agricole della zona, tant'è vero che viene utilizzato come ricoprimento dei rifiuti nella discarica di Rocca Secca, che dista dall'impianto 300 metri. Non ci sorprende quello che ci dici, visto che qui è noto a tutti come proprio l'impianto dove viene prodotto il compost a Maccarese, che è contiguo all'area di Malagrotta, è famigerato per la sua scarsa qualità, quindi insomma non avevamo dubbi sull'attività del ministro Clini, che insomma questa operazione pare più propaganda per evitare una multa che invece cercare di entrare riuscire a mettere in piedi un sistema di smaltimento meno dannoso, cioè, l'impressione è proprio questa. Di questo ne siamo pienamente coscienti, perché il ministro Clini, nonostante si occupi di ambiente da tanti anni, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, di qualsiasi tipologia di rifiuti, ha veramente dimostrato una certa incompetenza. Siamo alle solite, cercare solamente di evitare le multe, di mettere la polvere sotto il tappeto, lasciarlo lì e attendere che poi si provocano solamente danni. La sua intenzione adesso per il momento è solo liberare Roma da un'eventuale emergenza che veramente noi non abbiamo riscontrato. Noi siamo a Roma e ti possiamo confermare che i rifiuti per strada ancora non ci sono, poi magari giovedì, quando chiuderanno le porte ai rifiuti non trattati a Malagrotta, forse potrebbe cambiare lo scenario, però per ora qui è tutto a posto. È tutto tranquillo, sì, ma io volevo dire veramente questo, no? Io per motivi familiari, io frequento Napoli da oltre 40 anni perché mia moglie è di Napoli. La vera emergenza, ma vera, drammatica, io l'ho vissuta a Napoli, cioè quando le strade più importanti, più in di Napoli, erano ricoperte di rifiuti, e parlo di via Orazio, di via Roma, di piazza Plebiscito, di piazza Municipio. Però nonostante tutto questo, la regione Campania, la provincia di Napoli, è riuscita a smaltire i propri rifiuti, a provvedere allo smaltimento senza invadere il territorio, per esempio, di Caserta, di Avellino o di Benevento. L'ha fatto con molte difficoltà, le ha anche spedite all'estero. No, ma continua veramente la politica del comune di Napoli in altre zone. È quella di spedirli all'estero, insomma, però ha dei costi notevolmente superiori rispetto invece a quello che si era fatto fino al giorno prima, quindi insomma alla lunga anche quello procurerà dei problemi, almeno sul bilancio comunale, insomma. Sì, andava fatto in ogni caso prima di emettere l'ordinanza una ricognizione approfondita delle capacità degli impianti TMB. Mi sorprende il fatto che tre impianti di trattamento meccanico biologico della provincia di Roma ancora non hanno ricevuto l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale. Io non so che cosa hanno fatto in tutti questi anni, a partire dalla giunta Storace, Marrazzo e la stessa Polverini, che cosa hanno atteso a non rilasciare queste autorizzazioni, a non mettere in funzione questi impianti, a non renderli veramente attivi e efficaci. Hanno perso solamente tempo. Beh, no, guarda, adesso sono stati supini a chi insomma qui ci lucra su questo business. Non possiamo pagare, noi qui in questa zona non possiamo pagare l'inadempienza, l'inettitudine, l'incapacità e anche l'indolenza degli amministratori dei palazzi romani. Ok, allora nessuno escluso. Ok Fabrizio, noi ti ringraziamo per l'intervento e per la chiarezza e insomma ci risentiamo per eventuali novità, aggiornamenti da questa brutta vicenda e insomma vi auguriamo buona fortuna per la vostra lotta e insomma un arrivederci. Ma grazie a voi, perché ci avete dato la possibilità di spiegare i motivi della nostra protesta, anche perché siamo stati tacciati di essere dallo stesso ministro Crini, una cosa veramente grave, molto grave, di essere affiliati alla camorra o alla malavita dei casalesi e della camorra napoletana. È veramente, guardate, una cosa proprio che non si può sopportare. Ok, guarda, insomma rilanciamo quest'ultima cosa che ci hai detto e ti ringraziamo. Ciao, arrivederci, grazie a voi, arrivederci, ciao. E prima di lasciare spazio alla trasmissione Tappabuchi che sta aspettando, volevamo dare subito un'ultima notizia flash dal momento che è uscita soltanto 20 minuti fa sul Corriere del Mezzogiorno, ossia il fatto che a seguito delle riprese effettuate da un reporter freelance è stato scoperto che dentro i cantieri del Nomuos in realtà i lavori stanno andando avanti nonostante la revoca che Crocetta aveva dato all'autorizzazione proprio il giorno prima della manifestazione, e quindi a quanto pare insomma i movimenti si sono già espressi per tornare insomma a lottare, a protestare contro questi lavori abusivi che stanno continuando all'interno di questo cantiere. Detto ciò, prima di chiudere la puntata vi diamo gli ultimi appuntamenti. Giovedì 11 alle 17 nell'Aula Magna di Fisica si terrà infatti Scenari Energetici, mentre questa sera alle 19 al De Gage c'è un aperitivo resistente. Bene, e detto questo, grazie a tutti e tutte per averci ascoltato, salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, un saluto particolare va a chi ci ascolta privato della propria libertà, ricordiamo che per eventuali contatti, per mettersi in contatto con noi c'è la mail che è impatto@ondarossa.info.